Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, l'Europa oggi segna un passo importante, un voto che fa storia, senz'altro, in una trasformazione che vede la plenaria di Strasburgo approvare a larga maggioranza il rapporto sulle migrazioni. In sostanza si chiede, tra le varie proposte, l'asilo europeo, il meccanismo vincolante di reinsediamento, i cosiddetti corridoi umanitari, tutto nell'ambito di un forte rilancio del principio di solidarietà europea tra tutti gli Stati membri, insomma il superamento di quello che viene definito il regolamento di Dublino. Ne abbiamo parlato, abbiamo sentito la correlatrice di questo provvedimento, l'eurodeputata PD Cecil Kyenge. Questo voto per noi ha un'importanza fondamentale, perché con questo voto decretiamo la fine del regolamento di Dublino per andare verso un sistema centralizzato, un sistema europeo comune di asilo, e la nostra proposta è chiara, è quella di andare al di là del concetto dello stato di primo approdo, cioè proponiamo di istituire un sistema centrale collettivo per l'assegnazione delle responsabilità. Non si presenterà più una domanda di asilo in Italia o in Grecia, ma in Europa. Noi proponiamo di non contrastare il fenomeno migratorio, ma di gestirlo responsabilmente tra i diversi Stati membri. E questo rapporto parte proprio da qui, cioè al suo interno è molto forte questo punto, solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, in tutte le voci che abbiamo messo dentro il documento. Ecco, con il superamento, diciamo, dello schema di Dublino, si può dire che c'è davvero un po' più Europa oggi? Sì, serve veramente più Europa per la gestione richiedente asilo sul territorio europeo, quindi con una ridistribuzione, un ricollocamento, ma che deve essere obbligatorio e anche condivisa fra tutti i 28 Stati, ma anche per quello che riguarda le cause profonde dell'immigrazione, per cercare di andare verso un progetto lungimirante di medio e lungo termine. Quindi è veramente un passo molto avanti, anche un passo di responsabilità, quello che abbiamo votato oggi in Parlamento. L'Unione Europea intanto ha accolto 74 rifugiati siriani dalla Turchia, ne ha rimandati indietro sempre in Turchia oltre 300 secondo quanto previsto dall'accordo UE-Ankara, lo ha reso noto il commissario Dimitris Avramopoulos parlando appunto alla plenaria di Strasburgo, osservando che l'attuazione dell'intesa resta comunque una sfida. E sempre in plenaria, oggi pomeriggio a Strasburgo, ormai tra meno di un'ora dopo gli attentati di Bruxelles del 22 marzo, la plenaria appunto si prepara a discutere l'efficacia delle misure antiterrorismo adottate finora dall'Unione Europea. A rispondere davanti agli eurodeputati sull'argomento sarà il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, in un discorso appunto previsto alle 15. Interverranno lo stesso Avramopoulos e il ministro olandese della difesa Plaschert, a nome della presidenza di turno del Consiglio. Infine, la Commissione UE ha solo informazioni preliminari sul progetto del fondo per le banche, non è in grado ancora di valutarlo, ma è in contatto col governo italiano. Così un portavoce della Commissione spiega appunto alla Commissione: per ora l'Italia non ha notificato alcuna misura che implica aiuto di Stato e quindi non può commentare da questo punto di vista l'iniziativa che, come ricordata, è stata di fatto varata ieri sera nel corso di un incontro tra banche, privati, ma anche esponenti del governo al Ministero dell'Economia. Bene, con questo è tutto per Europa 24, l'appuntamento come sempre è per domani e adesso naturalmente tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.